Allora, un saluto a Roberto Esposito che stasera arricchirà questo nostro ciclo dedicato a questo contenitore un po' generico, vago, che si chiama modernità e che noi abbiamo assunto esattamente come contenitore problematico. Addirittura Carlo Ginzburg, nel suo contributo al ciclo, si è posto il problema se la modernità sia una categoria in grado di tenere, addirittura se sia una categoria che abbia una sua, come dire, anche validità dal punto di vista dell'indagine storica o se volete anche dell'approccio epistemologico. E Roberto lo farà dall'angolazione, un'angolazione che è sua direi dall'inizio del suo lavoro, ma che si è venuta esplicitando in un libro recente che si intitola Pensiero vivente e che è dedicato alla filosofia italiana ed è un modo di mettere in gioco il pensiero italiano rispetto ad altre forme di pensiero, altre forme di filosofia che abbiamo nel mondo e che spesso e volentieri vengono da noi importate e che sono oggetto di, come dire, di glosse, di commenti, di eterne glosse, eterni commenti. E mentre la tesi di Roberto Esposito è che vi è un valore aggiunto del pensiero italiano che è esattamente il pensiero della vita, o meglio il pensiero attraverso la vita, il pensiero nella vita, eccetera. È un tema questo che era presente, ripeto, nella riflessione di Roberto sin dall'inizio, ma era presente anche all'iniziativa comune che iniziamo all'inizio degli anni Ottanta, il Centauro. Centauro è stata una rivista che è nata proprio dalla scommessa che il pensiero italiano è un pensiero che va valorizzato nelle sue componenti più radicali. Poi si potrebbe anche dire che gli esponenti più grandi del pensiero italiano sono stati o misconosciuti in larga parte, penso a Machiavelli, o mandati a rogo come Giordano Bruno, o emarginati dal potere, però sicuramente vi è questo fattore della originalità e creatività del pensiero italiano. E la discussant importante, rilevante di stasera è Ida Dominiani, che ha già dato il suo contributo giorni fa, ma ce ne darà un altro anche come contrappunto all'esposizione di Roberto Esposito che appunto ascolteremo, quindi io mi taccio. Grazie Roberto. Grazie a te Giacomo, alla Fondazione, a tutti gli amici presenti, a Ida in modo particolare. Ma insomma, l'idea di questo mio libro partiva da una circostanza di fatto, cioè che dopo un lungo periodo di stallo, di ripiegamento quantomeno, sembra in qualche modo riaprirsi un tempo propizio per la filosofia italiana. Questo lo desumo da diversi segni, non soltanto la fortuna internazionale di alcuni autori viventi, molto tradotti, discussi, cosa che peraltro si era già verificato in altre circostanze, ma più nella forma di vicende singole, individuali, che in un quadro d'insieme, certo diversificato nei contenuti, ma riconducibile a una tonalità comune. È proprio quello che sta accadendo oggi, con una intensità che in qualche modo è assimilabile al recente sbarco della French Theory nei campus americani. D'altra parte, come è accaduto in altre stagioni ad altre culture filosofiche, per esempio nei primi decenni del Novecento in Germania, tra gli anni 60 e 80 in Francia, nell'ultimo ventennio, nell'area anglosassone, la filosofia italiana, più di altre tradizioni di pensiero, sembra oggi entrare in un rapporto che insieme analitico e critico con i tratti dominanti del nostro tempo. Naturalmente, come spesso avviene nel circuito delle idee, ciò che appare caratterizzare in maniera peculiare un dato orizzonte concettuale nasce anche sempre da un lavoro di contaminazione, di elaborazione di percorsi già avviati altrove, ma che solo poi in una certa cornice trovano la forza e la capacità espansiva che originariamente non avevano. E quanto è accaduto, per esempio, già con la categoria di nichilismo, no? Dai russi a Nietzsche, Heidegger, poi in Italia ha trovato una particolare specificazione. È successo con la categoria, vorrei dire, di secolarizzazione, no? Da Levit e prima ancora Weber e prima ancora Hegel, in particolare ha trovato qua in Italia, proprio negli studi di Giacomo Marramao, un rilancio, una modificazione tale che l'ha significativamente riposta al centro dell'attenzione. E qualcosa del genere è accaduto alla categoria di biopolitica, coniata negli anni 70 da Foucault, ha dovuto aspettare in realtà la fine degli anni 90 per conoscere la diffusione che ne ha fatto uno dei temi globali della discussione, ed è passata proprio per la filosofia italiana, per alcune interpretazioni italiane, dopo che in realtà per un ventennio era rimasta in qualche modo inattiva in Francia. Come mai anche in questo caso una categoria concettuale è dovuta transitare per l'Italia per acquisire rilievo internazionale? Ecco la domanda da cui sono partito. E per rispondere a questa domanda, appunto, io partirei da un dato esterno, cioè da un momento di difficoltà generale della riflessione contemporanea. Opinione comune che da qualche tempo, in generale, la filosofia contemporanea, non quella italiana, mostri segni di stanchezza. Basta rivolgere un po' lo sguardo alle tendenze più diffuse. Se la tradizione analitica mostra una evidente difficoltà ad allargare il proprio pubblico al di là di una stretta cerchia di specialisti, la teoria critica, che insieme all'ermeneutica costituisce il filone costitutivo della filosofia tedesca, non sta meglio, come appare anche dal confronto tra i primi e gli ultimi esponenti della scuola di Francoforte. Ma anche la decostruzione francese non sembra godere di migliore salute, non è ancora uscita dall'elaborazione del lutto per la morte dei grandi interpreti, Foucault, Derrida, Deleuze. Essa, diciamo, la decostruzione continua a produrre testi di un certo rilievo, formulazioni brillanti, ma dà la sensazione in qualche modo di chiudersi in un circuito un po' autoreferenziale, un po' ripetitivo. Naturalmente ciò non vuol dire che in ciascuna di queste scuole non ci siano ancora elementi vitali, che non possano rinnovarsi nei loro temi, nei loro contenuti, ma una battuta di arresto mi pare evidente. Da che cosa origina, mi sono chiesto? Io credo che non si tratti solo di una questione di ricambio generazionale, no? O di una difficoltà di comunicazione. Credo che ci sia qualche cosa di più profondo all'origine di questa difficoltà e che, nonostante anche delle vistose differenti, unifica queste correnti di riflessione contemporanea in uno stesso orizzonte trascendentale, cui invece risulta estranea, per i motivi che vedremo, la buona parte della filosofia italiana. Cioè parlo del ruolo giocato in tutte queste tre tradizioni, analitica, ermeneutica e decostruttiva, dalla sfera del linguaggio. Come ben sappiamo, se la filosofia analitica nasce esplicitamente come analisi critica del linguaggio filosofico, cioè della sua deviazione impropria rispetto alla lingua comune, se la tradizione ermeneutica vede il soggetto interpretante sempre immerso in una situazione linguistica, anche la decostruzione, soprattutto come è stata intesa da Derrida, parte dall'assunto della natura linguistica dell'esperienza, contrapponendo, no, la scrittura come capace di decostruire, di destrutturare il potenziale egemonico del linguaggio. Quindi da questo punto di vista i tre vettori fondamentali della filosofia contemporanea risultano tutti fortemente segnati da quel linguistic turn, no? La svolta linguistica che collega blocchi concettuali molto differenti, da Frege a Heidegger. Se per gli analitici la materia prima della filosofia sta negli enunciati linguistici, appunto l'ermeneutica pone l'interpretazione nel cuore di una certa lingua, e la decostruzione gioca nel rapporto tra linguaggio e scrittura. Quindi che sia declinato in senso ontologico, che sia declinato in senso epistemologico, in senso testuale, il linguaggio resta presupposto a tutte queste prospettive. Ecco, io credo che sia proprio questo elemento, questa presenza presupposta del linguaggio, a determinare una conseguenza, se non antifilosofica, almeno post-filosofica in queste tradizioni. Cioè il fatto che l'intera filosofia contemporanea, a partire appunto da Wittgenstein, Heidegger fino a Rorty, ponga la questione della propria fine della filosofia, assecondando, come dire, quell'attrazione per il post che domina la semantica della seconda modernità, io credo che abbia una connessione con questo primato del linguaggio. In che senso? Beh, perché una volta che il linguaggio, visto l'irriducibile frantumazione dei suoi dialetti, delle sue famiglie di frasi, nel momento che il linguaggio dichiara la propria parzialità, cioè la propria incapacità ad universalizzare la propria sfera di esperienza, beh, alla filosofia sembra restare appunto non altro spazio che quello della propria autocritica, della propria autonegazione, no? Cioè, la filosofia, a partire dal presupposto del linguaggio, si afferma sempre autonegandosi, individuando la propria soglia critica, anziché riuscire a costruire affermativamente dei concetti, tende sempre a situarsi dentro l'orizzonte della propria crisi. Allora, se questo è l'orizzonte in cui si situa il pensiero contemporaneo nella sua complessità, ecco, si può dire che buona parte del pensiero italiano gli rimanga esterna a questo orizzonte. Naturalmente questo non significa che anche in Italia il linguaggio non abbia costituito una sfera di indagine filosofica. Da Dante a Vico, a Leopardi, a tanti altri, ne costituisce un oggetto privilegiato. Ma io credo sempre il rapporto con le tre categorie dominanti della nostra tradizione di pensiero, che sono quelle di storia, di politica e di vita. Quindi si potrebbe concludere, naturalmente sto abbreviando un discorso più complesso, no? Sto sintetizzando, si potrebbe concludere che se il trascendentale di queste altre tradizioni filosofiche è il linguaggio, al centro della filosofia italiana vi sia soprattutto la categoria di vita. E che la vita umana sia intesa nella sua dimensione sempre storica, abbiamo detto, vita, storia, significa che è sempre oggetto anche di pratiche politiche e dunque che è in materia di conflitto. Quindi è da questo lato, mi pare, che il pensiero contemporaneo, bloccato in questa continua celebrazione della propria fine, può ritrovare una sorta di leva, di puntello per, come dire, riprendere a funzionare in maniera affermativa. Naturalmente altri autori in America, in Europa, hanno percorso, stanno percorrendo questa direzione, sarebbe stolto negarlo, ma il pensiero italiano nel suo complesso appare più preparato a percorrere questa strada perché già la conosce, già ha nei suoi stessi cromosomi un patrimonio genetico che va in questa direzione, cioè dentro la dialettica tesa tra storia, politica e vita. Fin dal suo esordio, diciamo tra 5 e 700, vita, politica e storia costituiscono gli assi di scorrimento di un pensiero, ecco, in buona parte esterno a quella piega trascendentale, linguaggio, cui invece, in cui resta impigliata la sezione più influente del discorso filosofico della modernità. Quindi, diversamente dalla tradizione che tra Descartes e Kant si istituisce, per esempio, nella riflessione sulla soggettività, oppure sulla teoria della conoscenza, ma anche diversamente dalla flessione metafisica del pensiero tedesco, la riflessione italiana si presenta, come dire, rovesciata sul suo esterno, no? Non introflessa, ma estroflessa. Non è una riflessione sulla propria essenza interiore, sul proprio linguaggio, sulla conoscenza, sulla soggettività, ma è una riflessione sul mondo esterno, per così dire. E, d'altra parte, le due caratteristiche che sono sempre state, in qualche modo, attribuite alla filosofia italiana, cioè quella di filosofia civile, a partire dagli studi di Garen, naturalmente, ma anche la filosofia italiana come filosofia di uno stile letterario, e tutte e due queste caratteristiche rimandano a questa capacità appunto di esteriorizzazione, la contaminazione con gli altri stili, che determinano, come dire, un effetto di rottura rispetto al lessico specializzato della filosofia, no? Della filosofia europea, che ha un lessico specializzato. La filosofia italiana rompe questo specialismo lessicale, si contamina con, appunto, con ciò che premia al suo esterno. Si potrebbe dire il contenuto della filosofia italiana è il non filosofico, no? Cioè non è un'autoriflessione su se stessa, sui propri fondamenti, ma è una, è, come direbbe, si potrebbe dire con Foucault, un pensiero del fuori, non un pensiero del dentro o dell'interno. Se si prendono in considerazione del resto le opere di autori come Cuoco, Leopardi, De Santis, ma già di Machiavelli e Vico, l'impressione è che il nostro pensiero adoperi un lessico di volta in volta diverso da quello della filosofia, il lessico della poesia, della storia, della letteratura, per poi ricostruirsi rovesciato all'interno di questi. Per esempio Leopardi, no? Adopera un altro lessico, ma che non espelle la filosofia, solo che all'interno di questo lessico la filosofia si ricostruisce con una capacità di prendere le cose che il pensiero astratto, logico, metafisico, analitico, oppure interiore alla francese, non riesce ad afferrare. Ecco, questo è la mia impressione iniziale. Ora, detto questo, prima di tentare una, diciamo, di entrare un po' più dentro questa macchina concettuale della filosofia italiana, occorre tuttavia affrontare una questione che è preliminare, da cui dipende poi la plausibilità del discorso. Cioè, esiste qualcosa come una filosofia italiana? È legittimo parlare di filosofia in termini nazionali o territoriali, oppure la filosofia come la musica, come la medicina, non ha connotazioni locali, è sempre in rapporto con l'universale. A me pare innegabile che una qualche connessione tra filosofia e terra e territorio esista, intendendo territorio non come uno spazio compreso all'interno di confini stabili, ma come un insieme di caratteristiche ambientali, linguistiche, stilistiche o tonali, che rimandano a una modalità specifica e inconfondibile rispetto ad altri stili di pensiero. E un autore francese, Deleuze, scrive: pensare si realizza nel rapporto tra il territorio e la terra, con una frase un po' enigmatica. Dove questo riferimento alla terra di Deleuze non rimanda ancora una volta a una radice etnica o antropologica, ma implica anzi una dialettica complessa in cui il territorio è il polo di un altro elemento che lui definisce deterritorializzazione. La filosofia è un'oscillazione tra una territorializzazione, cioè l'iscrizione in un territorio, e una rottura di confini, una deterritorializzazione. Quindi è evidente che la geofilosofia di cui parla Deleuze non coincide con un nazionalismo filosofico e neanche, direi, con una declinazione nazionale della filosofia. Ecco, la mia tesi è che forse nessuna filosofia, quanto quella italiana, ha questa tendenza alla deterritorializzazione. Cioè, non solo non è riducibile a un ruolo nazionale, ma trova la sua forza proprio nella distanza da un ruolo nazionale, perché a differenza degli altri stati europei, Francia, Spagna, Inghilterra, e esattamente anche con la Germania, sia pure con due secoli di distanza, beh, la grande filosofia italiana, Machiavelli, Bruno, Galilei, Campanella, Vico, non accompagna né segue la formazione di uno Stato nazionale, ma lo precede di molto. Cioè non condiziona né condizionata dalla vicenda nazionale. Nasce questa filosofia nostra in una situazione di decentramento e frammentazione politica lontana non solo dalla realtà, ma anche dalla possibilità concreta dell'unificazione. Nasce fuori dalla nazione o dallo Stato, senza una capitale come Londra, Madrid o Parigi che costituisca un collettore, no? In cui si incontrano esperienze intellettuali diverse. Nulla di profondo, nonostante quello che si è detto. Naturalmente io sto prendendo di contropelo la storiografia idealistica che porta avanti una tesi diversa e opposta. Io dico nulla di profondo o di intrinseco lega la filosofia italiana a quello che diventerà la nostra nazione, contrariamente a quanto pensava in questo caso la linea che va da Spaventa a Gentile. Perché se la ricca riflessione scolastica fino a San Tommaso si muove del tutto al di fuori, diciamo, della questione nazionale, gravita su Parigi la filosofia scolastica. L'intero umanesimo ha una proiezione esterna che ne fa un movimento ampiamente internazionale, fondato sul latino e il greco. Da un lato esperienza comunale e signorile, non stato nazionale, dall'altro i grandi circuiti europei, in una rete fittissima di rapporti, lettere, scambi con i grandi intellettuali europei, da Dante, Petrarca e Boccaccio, presto tradotti, anche Machiavelli, sia pure, come dire, in maniera poi controversa, e dall'altro lato da Erasmo in poi i grandi intellettuali che vedono in Italia, diversamente che in Spagna, in Francia, in Inghilterra, come un terreno senza confini e senza centro che diventa l'unico grande terreno di un'elaborazione di una cultura transnazionale, non nazionale. E del resto, quanto alla filosofia vera e propria, prima lo accennava Giacomo, si direbbe che i maggiori autori del periodo, Machiavelli, Bruno, Campanella, Galilei, si muovano in un rapporto teso e sempre agitato con il potere politico e con il potere ecclesiastico, fino ad arrivare anche al sacrificio finale, nel caso di Bruno, ma anche a decenni di carcere per Campanella, ma anche per Galilei, a uno scontro aspro. Quindi, ora, senza voler conferire una caratterizzazione eccessiva a questo elemento di resistenza al potere del pensiero italiano, Si può dire che nasca, anche al di là dei singoli profili biografici, anche qui dalla mancanza di uno stabile referente statale. Ora, intendiamoci, come mi ha osservato Galli della Loggia, ciò costituisce certo un elemento di debolezza, anche di immaturità della filosofia italiana rispetto a esperienze contemporanee europee. No, su questo ha insistito la storiografia, cioè l'antico dislivello tra potere e sapere, tra produzione di cultura e solidità istituzionale, certo ha costituito un freno alla crescita complessiva dell'Italia, ma è stato anche un elemento di libertà per il suo pensiero, è stato anche un elemento che ha reso il nostro pensiero libero da vincoli e condizionamenti che invece altre culture filosofiche hanno avuto, come l'Inghilterra di Hobbes, ma anche come la Francia di Cartesio, grandi apparati nazionali dentro cui nasceva la filosofia, per non parlare di un vero e proprio sapere dello Stato in Germania tra Fichte ed Hegel. In Italia tutto ciò non... L'Italia ha pensato la politica nella sua dimensione prestatuale, a volte anche di resistenza allo Stato. Certo, Gentile è stato un filosofo dello Stato, ma Croce e Gramsci sono stati due filosofi in quel periodo dell'antistato. Quindi torna la resistenza e l'Italia è stato l'unico paese in cui due grandi filosofi come Gramsci e Gentile sono morti per la loro filosofia ai lati opposti di una stessa barricata. Questo non è successo in altri paesi, a connotare questa dimensione politica, conflittuale e antagonistica della filosofia italiana. E non è un caso, io credo, che lungo questa linea anche la filosofia italiana, diciamo contemporanea, fra gli anni 60, 70, 80, abbia espresso, comunque lo si voglia valutare, un potenziale critico e antagonistico, anche la riflessione femminile da questo punto di vista, diversamente da altri paesi, con una carica e un'intensità particolare. Se pensiamo da un lato al filone operaista, dall'altro il filone femminista, questo elemento critico, antagonistico della filosofia italiana si è fatto sentire in un passaggio d'epoca importante, in modo tale che ciò che è potuto apparire un'anomalia o una immaturità, può tramutarsi in vantaggio in una situazione di passaggio di fase come questa, che diciamo dopo la soglia della fine della modernità, per così dire. In una, diciamo, l'assenza di una vocazione nazionale conferisce qualche cosa alla filosofia italiana che altre tradizioni non hanno avuto, perché non situandosi nel perimetro della forma Stato, ponendosi ai suoi confini, nel momento in cui il tempo della nazione sembra non finito, certo, ma comunque messo largamente in discussione nei suoi presupposti, nelle dinamiche globali, in qualche modo questa filosofia, che è stata la filosofia prima dello Stato, può forse dirci qualche cosa in una stagione dopo lo Stato. Si può aprire un cortocircuito, o comunque è possibile sperimentare, diciamo, in questa direzione. Quindi anche per questo passa quella che è stata definita la differenza italiana. Non solo per questo, e entro nella terza parte di questo intervento, relativa proprio alla modernità, che poi ci interessa più da vicino all'interno del nostro ciclo. Cioè, se la filosofia italiana, nella sua disposizione o attitudine originaria, si situa fuori dai confini dello Stato-nazione, si situa anche fuori, in misura esterna rispetto alle logiche e ai linguaggi prevalenti della modernità, alle logiche e ai linguaggi prevalenti. Con ciò non intendo naturalmente affermare che il pensiero italiano sia premoderno o addirittura antimoderno, neanche postmoderno, diciamo che almeno nei suoi interpreti maggiori si situa in un angolo visuale che è eterogeneo oppure trasversale, no? Sagittale rispetto alle linee di fondo della tradizione moderna, delle categorie fondamentali della modernità. Quindi questa eterogeneità lo rende in qualche modo inattuale, apparentemente inadeguato a comprendere le dinamiche moderne, ma anche nello stesso tempo capace di conservare intatto, come dire, una riserva di senso, una riserva di senso nel momento in cui, diciamo, le dinamiche moderne non sembrano più in grado di rispondere alle domande e ai conflitti che oggi si pongono alla fine della modernità. Certo, sarebbe stupido sostenere che la filosofia italiana abbia le risposte a quei problemi, che sono spesso irrisolubili e strutturali. Diciamo che significa che da quell'angolo prospettico, aperto all'incrocio delle categorie costitutive della filosofia italiana, è possibile uno sguardo diverso su quei problemi, non la loro soluzione, ma è possibile guardarli in maniera diversa. Qual è questa eterogeneità? Naturalmente per poterla definire dovremmo anticipatamente dare una definizione di moderno, cosa che qua non è certo possibile fare adesso. Quello che si può dire è che, questa è la mia tesi, la categoria o il dispositivo che caratterizza nel complesso la modernità, il discorso moderno, ma anche la storia moderna, è il dispositivo, io dico, di immunizzazione, cioè di protezione negativa della vita dai rischi che la minacciano e che nascono con la modernità, le guerre di religione, le scoperte, la fine della trascendenza, perché le più importanti categorie filosofiche della modernità io credo siano appunto interpretabili come risposta a questa esigenza autoconservativa della vita. Così è per la categoria di sovranità tra Baudin e Hobbes, così è per la categoria di soggetto tra Descartes, Leibniz e Kant, ma si può dire qualche cosa di analogo, ricordo che anche Giacomo ci ha lavorato, anche per la categoria di storia, intesa nel suo senso progressivo, la categoria di progresso è una categoria immunitaria rispetto alla contingenza, all'imprevedibile, no? E beh, si può dire anche qui che il pensiero italiano sia nel complesso fuori da questo orizzonte immunitario. Per i suoi autori più importanti, Machiavelli, Bruno, Vico, il conflitto, la contingenza, l'imprevedibile non sono gli elementi da cui gli uomini debbano difendersi, ma sono, diciamo, la fonte energetica dell'esperienza umana. Questo è anche un tratto molto presente anche nella filosofia contemporanea, poi Ida ci dirà qualcosa di più su questo, no? Cioè, diversamente dai filosofi moderni che vogliono rompere con l'origine, perché l'origine è caos, è bestialità, è appunto conflitto ingovernabile, i grandi pensatori italiani, Machiavelli, Bruno, Vico, ma anche Cuoco, Leopardi, ritengono che l'uomo non debba mai perdere il contatto con l'origine, cioè con questa potenza energetica, anche rischiosa, anche arrischiata e arrischiante, ma che appunto è una forza propulsiva, rotto il rapporto con la quale l'organismo si neutralizza e quindi deperisce. Quindi i tre paradigmi fondamentali, se dovessi indicare quali sono i tre paradigmi fondamentali che caratterizzano il pensiero italiano, ho cercato di farlo nel mio libro, da allora fino ad oggi, direi, il primo è il rapporto tra antagonismo e immanenza, tra conflitto e immanenza. Il moderno, come sappiamo, chiude la politica nella trascendenza dello Stato sovrano, un doppio piano di trascendenza, sacrificando, come ben noto, il conflitto all'ordine, e la linea di Hobbes, no? Il pensiero italiano, a partire da Machiavelli, invece, situando il politico fuori dallo Stato, lo colloca su un piano di immanenza che però è sempre conflittuale. Naturalmente questo è un problema pratico e filosofico. Quando io dico che il piano di immanenza è tagliato dal conflitto, significa che in un certo senso non è puramente immanente, perché è tagliato dal conflitto, ma che il conflitto politico si estende sull'unico piano della realtà. Perciò è immanente, cioè non apre una via teologico-politica di trascendenza. Quindi il rapporto tra antagonismo e immanenza, quando Machiavelli dice noi dobbiamo seguire la verità effettuale delle cose, si riferisce appunto al fatto che noi non possiamo sfondare il piano di immanenza. Quella è la realtà effettuale delle cose ed è sempre conflittuale. Quando Gramsci, no? Qui c'è uno studioso rumeno di Gramsci e anche di Machiavelli, quando Gramsci dice Machiavelli anticipa il partito politico, no, con la figura del principe, intende dire che Machiavelli capisce il fatto che nella realtà non si può assumere il punto di vista del tutto, si assume sempre il punto di vista della parte, si deve sempre parteggiare, cioè il mondo è attraversato e modellato dal conflitto per il quale bisogna schierarsi. Stare da una parte o dall'altra, come anche Gramsci a sua volta dice, il concetto di egemonia è questo. Diciamo quello che Foucault chiama l'ontologia dell'attualità, significa l'attualità è tagliata da prospettive alternative conflittuali. Non è possibile neutralizzare tutto, stare al centro. Questo elemento è molto importante, il rapporto tra antagonismo e immanenza, che torna lungo una linea che va da Machiavelli a Gramsci, anche alla tradizione operaista, anche se poi Tronti ha deviato verso la trascendenza a un certo punto, no? Chi è rimasto dentro l'immanenza è stato invece Negri, che però ha perso il conflitto, no? Le due linee sono, no? Tronti ha salvato il conflitto ma ha perso l'immanenza. Negri ha salvato l'immanenza ma ha perso il conflitto. Quindi si tratta di cercare una via che ci passi in qualche modo in mezzo. Ma Tronti poneva questo problema quando scrive Operai e Capitale, che appunto è il libro fondativo della nuova filosofia italiana, cioè poneva questo, diceva, il problema è la compatibilità tra dentro e contro, dentro immanenza e contro, cioè come pensare la classe operaia dentro il capitale, cioè il conflitto dentro il capitale, in modo tale però che non si distrugga l'uno e l'altro, altrimenti senza capitale non c'è classe operaia e viceversa. Quindi poneva un problema, i problemi filosofici sono tutti irresolubili al loro fondo, no? Ma una grande filosofia è quello che pone problemi tragici e irrisolubili come quello del rapporto tra conflitto e immanenza. La seconda questione, anche il tema della biopolitica naturalmente ripone questo problema, e questo distacca la riflessione sulla biopolitica che c'è stata in Italia dal modo invece sociologico con cui è stata elaborata spesso in America. In Italia questa categoria non è solo una categoria concettuale, è un elemento di mobilitazione. Questo è molto importante. La filosofia che riesce ad essere anche una spinta, la capacità performativa della filosofia. Dentro questa categoria c'è qualche cosa che spinge, per così dire. Il secondo paradigma che riguarda la storia, fondamentalmente, sta appunto nel carattere cioè nella sottrazione del concetto di storia come è pensato in Italia rispetto alle filosofie del progresso, rispetto alle filosofie della storia, diciamo, dove evidentemente il luogo teoreticamente più denso di questo paradigma è il pensiero di Vico, no? Cioè la rottura tra ordine della storia e tempo lineare. Come sappiamo, lo posso richiamare solo in un attimo, Vico parte dallo scarto tra storia sacra e storia profana, cioè che sdoppia la storia in linee differenti e anche dentro la storia profana. Ogni tempo di ogni civiltà è diversa. Quindi i tempi non coincidono, non si fondono in un'unica linea che va verso il progresso, verso il meglio, anzi, il tempo è sempre sospeso in Vico alla possibilità di una regressione catastrofica. In Italia c'è con forza, quando ancora stanno per nascere altrove le grandi filosofie della storia, l'Italia pone la questione della crisi, della storia come crisi. Nella Scienza Nuova è chiarissima questa rottura della linearità del tempo, e se pensiamo a un altro saggio che è stato molto importante nella tradizione italiana, che è il saggio storico di Cuoco sulla rivoluzione napoletana, ripone lo stesso problema, cioè quel fallimento catastrofico è nato dall'idea che la storia sia naturalmente orientata verso il meglio e che non si debba tenere conto della vita, no? della materia con cui è fatta la storia, che è diversa da luogo a luogo, con il corpo della storia, per così dire, no? In Cuoco la storia non è forma, non è asse che si sviluppa, ma è corporeità e materialità, diciamo, ed è un tema che torna diversamente in Leopardi, De Santis, cioè la crisi per tutti costoro, a partire da Vico, nasce nel punto in cui la storia si separa dal corpo, no? Diventa pura logica, e questo produce catastrofe, no? La rottura tra l'ordine della storia e l'ordine biologico naturale. E arrivo quindi alla terza categoria, al terzo paradigma costitutivo, che è appunto quello, la categoria di vita, declinata in Italia nel senso del comune, qui c'è anche Augusto, no? Il comune, la vita è pensata nel senso del comune o anche, come io dico, dell'impersonale. Che significa? Cioè, mentre la concezione moderna ragiona intorno alla categoria di soggetto e prima ancora alla categoria di persona, cioè una categoria che taglia la vita, diciamo, dentro la divisione tra spirituale e materiale, anima e corpo. La filosofia italiana tende a pensare la vita fuori da questa macchina che taglia l'essere vivente e che, diciamo, ricompone il nesso tra vita umana, vita animale e vita del mondo. Per esempio, in Bruno è fortissimo questo elemento di critica del soggetto, perché il soggetto è tutto immerso nel movimento autocostitutivo della realtà, in cui c'è dentro materia, corpo, anima, spirito, animale, uomo, cioè questo elemento anche caotico, che però contiene la potenza della vita infinita, come dice appunto Bruno, no? Si può dire che il pensiero italiano, dalla sua genesi, si costruisce fuori dalla macchina argomentativa dell'individualismo moderno, no? Certo, Machiavelli lo sa che la storia è fatta anche dagli individui, ma in una forma che non si rompe mai rispetto alle dinamiche collettive, alle dinamiche del comune, come diremmo oggi, no? Cioè a gruppi, a blocchi, a potenze collettive, per così dire. E del resto anche questo tema che ritorna nella filosofia italiana della comunità, della comunitas, come vogliamo chiamarla, peraltro è un tema che è molto presente nel grande ultimo Gentile, no? Genesi e struttura, questo libro, il libro tragico della morte di Gentile, tutto concentrato sull'idea che in interiore homine ci sia la comunità, cioè anche là il rapporto con l'altro, addirittura il rapporto con il nemico. Quindi torna il tema della comunità e del conflitto anche in un autore, tra virgolette, idealista come Gentile, no? E la stessa categoria di Prassi, poi, da Gentile fino a Gramsci, nasce nel superamento della rottura tra soggetto e oggetto e nel rovesciamento mondano, nel mondo esterno. C'è naturalmente poi la linea che va da Spinoza a Marx, è inutile dirlo. Spinoza è il più italiano dei filosofi stranieri da questo punto di vista, no? Non a caso legato molto a Machiavelli, perché spinge appunto la filosofia verso questo tema dell'impersonale, della rottura della soggettività. Quindi al centro del pensiero italiano resta questa questione della vita, non della nuda vita, no? Che non esiste in quanto tale, ma delle forme di vita, in cui anche la soggettività, questo tema ha riflettuto molto la filosofia femminile, la soggettività appunto resta interna ancora una volta a quel piano di immanenza che fa tutt'uno con il carattere costitutivo della comunità e con il carattere, diciamo, insieme personale e impersonale della vita.